già. Lo capo. Ganime, ascolta a me, quale microfono stai usando? Eia. Signor radio, minchia. Forte. Cazzo, fortissima. Anche tu la devi aprire le leggi al tuo apparecchio, come ho fatto io. Io l'ho già aperto lo stesso. Sì, vabbè, ma esce forte anche il tuo, vabbè. Ma il 2009 dici? Eia. Sì, vabbè, anche una più gana da bricosi, lui. Chi ne ha più voglia già, dai. Aspetta, attimo, attento, non fammi una doccia, ci sentiamo dopo. Eia, oggi è la terza volta che te la faccio. No, cosa è la terza volta? A casa non me ne sono fatto la mamma, poi siamo usciti, dopo ho mangiato, mi sono andato a fare delle commissioni, ma me la volto, no, Ah, pensavo che te l'avessi fatta, e tu mi hai detto che non faceva a darmi il passaggio perché dovevi farti la doccia, pensavo te l'aveva. Lo so, pure ho avuto contrattempo per quanto riguarda un display con un cliente eBay, che è un casino, bacca di tavola. Per spedire un display che pesa boh, 80 grammi, cazzo, 8 euro ho pagato. Ma nuovo? È un display che mi hanno mandato, funzionava benissimo, solo che avevo un difetto che si vedeva un po' di luce ai fianchi. Cioè al fianco del display, no? Al bordo, diciamo, ecco, chiamiamolo così, il bordo, ci vedeva un po' di luce. Non va bene così, poi se l'ha incollato male. Infatti gli ho mandato la foto e gliel'ho rispedito indietro, e infatti gli ho mandato il messaggio di mandarmelo un altro. Speriamo non arrivi come quello. Ma display di che cosa? Di qualche cellulare? Ehi, a Huawei P8 Lite. Che tre. Magari ci andava bene anche quello del P10, no? No. Con i mesi. Comunque questo telefono ho trovato nessuna difficoltà, è uguale a Huawei come funziona. Ma sono più veloci magari, dai, arrivo subito. Più veloce, è più bello come colori, come tutto. La fotocamera è ancora meglio dell'altra. Beh, ti credo, là. Ci sentiamo dopo già, alla fine, noi siamo già in mutande. Le mutande, na na na na na. Avanti, Claude. Vabbè, e che si fa attendere? Mi provano il coso, il microfono, a vedere se va bene, dai. E questo è il coso, come si chiama? La static. Va bene, ma non bene, no, di più. Cappa. Sto aspettando gente che viene a casa a ritirarsi roba. Adesso già lo sentirò quando suona. E lì loro sono preparati, stanno uscendo. La figlia. Basta. Oh, finito, ho già trovato un porco. Anche la testa mi fa male. Ma finito perché la tua figlia già? Come finito? No, oggi no. Non ci va a lavorare. Perché? Finito il giorno dopo. Oh, finito il lavoro, come orario sto dicendo. Allora, di sera non ci va a uscire a luna. Pure, che ci voglio un sonno, mamma mia. Io mi sono preso mezzo malanno stamattina, con tutto che c'è il giubbotto, e sono tornato a casa sempre starnutendo. Freddo c'è. C'è freddo, bisogna coprirsi bene, bene, bene, bene. Ehi, eccola. Io l'ho coperto, però c'avevo il giubbotto anche sopra. Io. Non ho più esperimenti, mi tieni, intendendo, con quel microfono, il gas, corsa retta, tieni i microfoni che hai, ma facciamo già, perché gli abbinamenti li hai già fatti, va benissimo. No, ma infatti adesso mi fermo così, ognuno c'ha il suo microfono, uno è quello della ZG, che va un po' meno bene, ma si può adattare anche a quello. Sì, ma quelle radio che usi, come il 2009, quell'altro base, quello con le luci blu, il Galaxy, lascia il microfono che hai adattato. Sì, ma infatti, oggi su internet c'era una richiesta di un apparecchio che ci avevo fino a stamattina, dai, che poi ho dato. Quando vuoi dare internet io non mi interessa. La radio che ho, me la tengo, se no poi rimango senza. C'ho tutte le radio praticamente, tutte. VHF, baracchini in vita, è tutto. Però uno di ogni marca, capito? Ne avevo troppo doppie, no, non fa niente. Ma infatti. E questo diossidio lo stava cercando, uno uguale a quello che ho dato stamattina. Sì, ma c'era nel mercatino collegato nel mobile. Ma infatti. Se stai a prendere tutto quello che ti piace, devi avere lo spazio che ha una persona, non lo spazio che c'ho io. No. Io non invidio nessuno spazio, ne ho qua, non te la voglio qua dentro. Vado una scrivania, una base da 2,50 m. La voglio mettere la radio vintage, la radio di qualsiasi tipo, una base, poi già hai visto l'altra. È da 2 metri, perciò doppia, 2 metri sopra di piano, 2 metri sotto di piano, con i lati vuoti, anche da poter mettere il proprio computer con il carrello con la tastiera, e ne ho spazio. C'è un armadio attaccato al muro, con i saggi di radio, e poi quell'armadio quest'anno lo faccio sparire, abbiamo deciso così, e mi faccio immenso dal muro, quindi... Non so cosa succede, però se mi venga non vado ancora la tentazione di fare qualche raccolta, vediamo. Ah, via che basta, dite a me di dimmi. Ma no, che stanotte no, non c'è nessuno a cena, intanto devo no. Si rientra alle 10 qui. Mamma mia, sto giovaniando, pezzi. E ancora ci rimasta un po' roba stanotte. Soprattutto dolci, che bisogna farli sparire subito pure. No, io mi ho fatto i funghi stamattina a pranzo, buoni, buonissimi, e poi una bella bisteccona e via, fate il gioco. Un po' di mandarini, mandaranci danno mandarini. E basta così, non è che ha mangiato più di tanto. Sì. Vabbè, io c'avevo gente a pranzo, però no, non potevo fare diversamente, ancora c'è il porto insalata, stanotte ve la passate, mentre prefermo, c'è un po' di roba passata. No, ma questo permette il salmone di mangiare. Poi, vabbè, c'è un riposo, cazzo. E lui doveva, manco marchio. Niente vino, nulla, sono tutti assieme, quindi ne ho approfittato anch'io, infatti volevo portare la mia Genova, ho tirato il vino, però non la portare, non me la fatti nulla. Un fumantino con i dolci, no, non arriva nulla, va. Bevo acqua. Quando mangi così, alla fine poi non digerisci manco bene, alla fine, No, io non sono più abituato, capito, sto mangiando poco. Quindi sono veramente sazio. Infatti non fossi due più nulla. Ci sono già le 5:20, che ci sono ancora bien. E ho bisogno da ridere. Adesso mi adesso un metro fuori stanza. Un pochino a rilassarmi. E loro stanno uscendo. Ma forse in giro è bene da pigliare freddo lì. Non dice pigliati. Un digest, che ti fa digerire. Infatti, no, più che digest prendo un po' di bicarbonato con limone. Un po' di bicarbonato con limone già passa. Adesso mi ho messo la parte con la radio del Roberto, ma magari restituisco intanto, ma quello della il microfono non c'ha niente, nulla. Non ha niente, è che c'ha quel cazzo di connettorio. Se lì gli hanno messo un connettore a 4, lo devo dire come decidi sul microfono, non c'è niente, l'ho aperto nuovo dentro, anche la capsula è nuova. Anche la capsula è nuova, misurata con testa, c'è la tensione sua, tutto. Non ha niente il microfono. La radio è brutta che non si viene nulla, no compa, no, non va. Ma qui c'era anche Britella. Sì, clamio, ho finito adesso di lavarmi, dai, mi sono messo nel pigiama. Oh, a Giulia Marina. Positivo. Io non ho, se non vuoi devo segnare. Si è uguale, sì. Ah, c'è un fischio. Un fischio, io non ho un fischio. Va a cosa disturbando allora. Qualcuno stava disturbando, ma io non ne ho fischi. E è un... si disturba bomba. Ma che sblatter, vabbè. E il solito coglione è lì dalla collinetta alta, che so io, sicuramente. Fino a quando non mi si girano i pibisti, vede che mi l'ho messo la cristiana, io vedo. Anzi, la cristiana. Ho bicicletta. Eccomi. Cosa? Sono venuta gente, sono a tappire, non ti ho potuto avvisare. E non c'è problema, se devi fare, fai, sono qua. No, no, io sono tranquillo adesso. Va bene. Ecco Luca, c'era forse qualche portante lì. Dove? Alla Pedosa. E non è la Pedosa, è da giù la portante, ce l'ho su io, vabbè. Ma perché costringo la gente a attaccare, No, non era una portante, era un disturbo, uno sbatte, va, con un fischio. Uno sbatte, con un fischio, non quanto ti sta arrivando io a te adesso? Sul più, là, sul più del più 30. Non ti vabbè, va bene, non metto lingua. Quello già oramai è sgamato, quindi stia attento col dito, se no... Quello già che ha voluto di un pesce, ti lo sta cercando, non stiamo facendo niente. Lascia le cose tranquille e serene, vai a parlare da altre parti, se vuoi parlare, se non puoi mettere in culo, se la riesci. Comunque quando ti fa la doccia, cazzo, ti alleggerisci un bel, mamma mia. Ti fa dei drumi? Cosa, cra? Cosa già? Che ti rilascia al punto che ti fa dormire. Vabbè, a prescindere, però ti alleggerisce un bel. Poi ovvio quando, vabbè, adesso che non sto lavorando, però quando rientravo dal lavoro, perché faccio un bel di ore, quando lavoravo con Filippo, che arrivavo tipo le 7, le 8, le 10, anche le 10 di notte, cazzo, un sacco moscio, guarda, stanco molto veramente. Però guarda, posso dire che era anche un divertimento. Cioè già lavoro in sé che è pesante, in più un viaggio anche da 2 ore, insomma, un po' pesantuccio la cosa, ma anche chi sei da 1 ora è sempre pesantuccio, E che cosa facevi tu? Prati sintetici. Ah, ho capito. Come ci sono la marina di sorsa negli aiuoli, che se trova che bell'erba, verde e verde, la tengono proprio bene. Se non guardo bene, cazzo, era di quelli finti. Sì, sì, proprio sintetico. Mi assento, arrivo tu, arrivo subito, allora, riprendi qua. Io anche la rotonda qua che c'è in via Milano è proprio sintetico. È una sintetica. L'ho vista anche con quello l'hanno messa. Anche il campo che hanno fatto lì vicino a casa tua è sintetico, Gianni, non hai visto? Il campo quello che c'è sotto al ponte. Sto al ponte, la barbetta, il campo che c'è lì, quello, il campo che c'è a casa tua, quello è sintetico. Sì, sotto al ponte, quello della, come si chiama, la linea, no, non me lo ricordo come si chiama, e vabbè, già ho capito comunque. La Rinieri, una cosa del genere. Lanteri, quello lì, si entra non da via Baldetta, ma si entra dalla parte opposta di via Baldetta, dalla parte di casa dove c'è il ponte. Quello è molto bello. Quello è molto bello, ma visto come l'hanno fatto. Prima era, che quando piovava si allagava tutto, adesso è molto bello. E poi è pratico, non devi stare a innaffiare, a tagliare l'erba, a fare questo, a fare l'altro. Lì, l'erba sintetica e via. Non so con quali scarpette si possa giocare, forse poteva bene, pensami io. Non penso con quelle chiodate sempre, quelle le scarpette che usano normalmente con i tacchetti. Ma Roberto bisogna averlo, non so se si rovina, se si buca, ma non so come quanto è fatto, ho visto che era rotto io quando l'ho fatto la rotonda qua, la mettevano e poi la tagliavano con una lama per arrotondare, per fare, capito? Cappagatto. Io vede meglio che ha sciuzzato, mi stai sono... Questa tipa lo stava guardando, cazzo, c'è va lo zaino, e gli si è lanciato in te, l'ha presa lo zaino, l'ha morsicato lo zaino. Oh, questi cani, mamma mia, il mio, l'altra volta, aveva tre piglie, si è chiuso la porta, è uscito la piglia, è uscito fuori e l'ha morsicato la gamba al pizzaiolo, dice, questa è la porta pizza. Oh. Dov'è la musica di Aghiso che giù t'abitassi quella roba là? E ho lasciato la porta aperta e è uscito fuori. E lui dice, ciao, Taggio. Ha detto, ferma tu, fermo. No, se non ti conosce, se non ci sei tu, il mio è lo stesso. Stavamo parlando stamattina con il signore, che c'era qualche anno. Sono così morosi, non ci sono bravi, però... territorio suo, hai capito, sarà una casa sua, chi sei? Presentati, ma anche sei tu, vieni, vieni, ti presento mio amico, vieni, va. Come hai fatto il primo giorno con me, no? Adesso quando mi vede, certo, prima di giocarci di fare, però è più attento, si ricorda che sono già venuto lì, capito? Ma uno, altrimenti ti va di entrare, ha preso, si è avventato sotto la caviglia, che ha una mossa la struttura. Ha fatto anche male, l'ha fatto, porca puttana, è un cane, è una cosa allucinante, non fa entrare nessun altro caso. E cosa ti ha detto? Vuoi essere pagato, usci subito. No, non ha detto niente, ha detto scusa, ha detto, no, non fa niente, però mi ha fatto male. E ha detto, guarda se ti ha fatto richiuso la porta, guarda se appena appena la punta del dente deve essere quello di fianco, cioè i denti di fianco, che cazzo, un chi so batterai tu, davanti non ha male il bianco, infatti gli morsica di fianco, maledetto, ma appena segnato la mano, non c'era né sangue né niente, perché fammi sapere se c'è qualcosa, sono qua, pure tornato l'altro giorno, l'ho stesso a portare la fine, e tombe il piede, no, tutto a posto, mi ha fatto male al momento, però ti attento quando... Ma questo qui era tranquillo, una coppia lo stava guardando e basta, sono passati di notte però, sono passati, la tipa lo sapeva che bello, lo stava guardando e sta giù, lo zaino l'ha bigliato, poi l'ho tirato e quella lì è rimasta secca a casa, ho detto scusa, no, non ti preoccupare. No, però già trovi la targetta, non ti preoccupare, ci vuole andare... ci crea problemi, io infatti non lo sto portando più molto presto, lo porto tardi, perché sono meno cari in giro, meno gente in giro, capisci, si attacca con tutti, è un terrorista, cazzo, a casa è un agnello, come che non ci sia un gatto, ma quando esce fuori una rottura di balle, vabbè, sono mai loro, sono sempre a lavoro, quindi il cane sarà solo, poi fuori non sta perché c'è freddo, sta sempre dentro, e se dormito va sotto la televisione, nella brandina sua, tutto coperto, lì si vede in isola Recci. Perché fai se non è così? Perché il cucato è dormito, lui stava aspettando che andasse a letto dopo pranzo, siccome avevo mille cose da fare, mi sono pulito tutte le gabbie, gli ho messo da mangiare, tutto garfo, un'oretta ce la perdi quando fai questi lavori e lui stava sempre aspettando vicino a me, fino a quando mi sono mosso e te io che andiamo là che ci riposiamo 5 minuti subito, ma sì, dove era del letto? No, lui non ce la fa più a salire sul letto, non ce la fa più, cioè salire già ce la fa, scendere e poi si fa male e c'ha problemi, quindi no, lo fa sempre con il gatto, il calduccio, ed è quello che lo sta, poi ogni 15 giorni prende la pastiglia per rinforzare le ossa, che è un po' forte, non lo può solare spesso, capito, ogni 15-20 giorni, ma le tue veterinarie, adesso le asposteremo ogni mese, è una pastiglia un po' forte, 30 cose cazzo, 30 giro, questa è una pastiglia da 6, una scatola da 6. Quanto il Viagra costa? Sì, è tipo un Viagra, dice, per riportare le ossa, così, mo se non lo tieni tu a Calduccio, tutto il servizio reverito, si incani e ti muri. Sono cani che hanno bisogno molto di cure, di attenzione, capito? Non è che un bel bulifura, c'è molta gente che lo tiene nel poggio, capito? Fa dormire fuori, nella cuccia fuori, nel giardino fuori. Non so, è difficile per rimanere fuori, stare al caldo, se no. Con le basse temperature il cane sta male, si crepa. Ma ti rimasi quasi piccolo il mondo, beh. Più figlio di un datore di lavoro mio. Ehi, già l'ho visto, l'angelino. Sì, sì. Non me l'avevo già visto quello. L'avevo già visto da qualche parte, capito? Poi non mi ricordavo dove. Invece l'ho visto al Trisbar. Perché è il cugino di Amedeo, capito? Ma... praticamente a me il padre mi aveva offerto il doppio dello stipendio che prendevo, il doppio. Guarda, perché mi ha detto, mi piaci come lavori, ti do il doppio. Io siccome stavo studiando ancora, andavo d'estate così per farmi qualche soldo, capito? Ho lavorato in estate e loro volevano che rimanesse a tutti i costi. Magari se fossi rimasto sarei stato meglio, ma avrebbe chiuso prima, quindi è meglio che sia andato dove stavo andando. Perché signor Angelino è molto giovane, aveva mi pare 52-53 anni, una cosa del genere. 57 ne aveva, 57. No, ma quando è morto lui ha continuato l'azienda. E poi le quote sono andate alla partenza. Non so se è il figlio o quello lì o qualche altro. La partenza, la quota maggiore della partenza è di quello lì. Ho capito, ma lì il carabiniere era la moglie, era quella che dirigeva tutto, la moglie. Gianni, carica 10 case di birra, 2 di case, tutto è da vazia. E io già lo so, è perché si chiama Guapo, sì, è il fratello di San Francesco, il padrone del Trisbar, capito? Infatti lui è il cugino di Amedeo, quello che abbiamo fatto stamattina. Sì, noi ci servivamo... prendevamo un po' di roba, l'acqua sandalia, la birra, quella vuota a rendere, e un po' di tutto. Io avevo già Piero Marini, dico, come autista. Io sono stato anch'io autista lì, però solo per l'estate. Vabbè, già ce n'è di questa bella gente. Ha fatto un sacco di lavoro, non solo quello lì, già ce n'è, ce n'è. Allora non va più, non davanti a Murino. Lo sai con chi, adesso mi venuti a mettere, lo sai con chi sono entrato a lavorare da Angelo Kirchi? Con Antonio Tilocca, siamo andati due cercandoci lavoro per l'estate. Girando, girando, poi alla fine l'abbiamo trovato. Siamo stati a prendere niente, ci abbiamo fatto un giro. Lui studiava ancora all'istituto agrario, io stavo studiando alle professionali. E praticamente siamo buscati lavoro per l'estate e uscivamo insieme. Antonio, ci siamo visti da poco. Ci siamo visti da poco. Vediamo, mi sembra di aver registrato un vecchio avanti. Aumenta la radio, K, che faccio fatica a sentirti. Ciao, buonasera. Ancora appena. Sì, ok. Non è eccezionale, non è alta, ma già adesso ti sento, poi lo fanno, ti sentivo. Avanti già, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, avanti già. Ciao Claudio, ben sentito, dai. In effetti è così, quando parla Claudio devo abbassare, quando invece parli tu la devo alzare. È un po' bassina, se puoi alza la pena appena. Come l'hai abbassata questa radio? Sì, io ti ascolto bene, dai. Fagli una foto e mandami. Sì, l'ho avuta quella radio, l'ho avuta, va benissimo. Inizialmente ti sentivo basso, adesso già ti ascolto bene. Già ti ascolto bene. È quella che, tipo quella che avevo io già, mi pare. Che avevi preso tu all'asta già, una cosa del genere mi sembra. Quella, non so se quella a tre strumenti o quella a quattro strumenti. Quella veicolare, sì, che è stata bella quella col baracchino, sì. Non lo facevo che ero in base perché adesso mi sto ricordando che l'avevo attirato a Barracuda. Va bene, tranquillo. Avanti già. adesso come sto uscendo di radio e Santiago che ho da Ruggito, questo qui è 3009 con la Static. Ecco, appena l'ho fatto stamattina gli attacchi Lucca, vedo che va bene, dai. Sì, attimo, un secondo, sto cercando una cosa, una cassetta. Mi avete ricordato, domani appunto anch'io voglio portare la radio, sto una radio a sistemare e sto preparando la roba, le prendi già? Cava, cava, e via, e vabbè, là. Sto bene, ciò che finisce bene. E si è dato subito da fare, Gianni, come è arrivato, subito si è dato da fare, così è occhio da Ruggini. Ma chiedimi se sono o non sono, capito? Perché 9:15 è con l'aiuto. Sono tutti così quando esco dalla fabbrica, ti segna due segnali in più. Sono tutti così, anche il mio così. E vabbè, però meglio lo so, da due segnali di me è fatto il gioco. Anche io pensavo che fosse la stazione base, Ruiz. E a me mi piace quella che c'ha. Mi piaceva quella che avete dato Antonello di Ussi. Quella che c'ha Antonello Baracuda è quella che gli ho dato io, mia Gianni, o già. Ah, così è. Ma lui mi ha detto che l'ha data Gianni Capidue, l'avesse che ha fatto il giro, a te, a Gianni, da Gianni a lui. No, Gianni, no. Io praticamente quello che hai gareggiato tu, il primo che ho avuto, ok, quello lì era il mio, l'ho tenuto io e poi l'ho dato a Walter, ok, per altre cose, l'ho dato a Walter. Poi me ne aveva fatto avere un'altra persona, simile tipo quello lì, uno strumento in meno però, non a quattro strumenti, uno strumento in meno, a tre strumenti. E quello lì l'ho dato a Gianni. Ho fatto Gianni Caprino, Gianni Caprino l'ha usato, bimbumba, poi è andato Antonello e ce l'ha portato via. Ma è nuova, nuova quella radio, è favolosa, funziona molto, molto bene. Cappa, cappa, ho capito. Sì, sì, vabbè, poi le radio girano, prima c'era uno, poi c'era l'altro. Ma se girano che sono a posto, tutto di guadagnato, naturalmente non bisogna toccarle, se no poi arrivano all'acquirente e sono tutte smanettate. Sì, sì, lo so. E piaceva anche al fratello di Antonello. Ehi, ehi, sì, sono radio belle, anche da vedere quelli lì. Non sono tutte a me le stazioni di base che piacciono, ma lui si mi piace particolarmente. KK, certo. Sì, ma diciamo che ce ne sono che a me non piacciono, il radio vintage. Non sono tutte che mi piacciono, quello proprio ti prendeva all'occhio, perché aveva belli strumenti, ben illuminati, era una bella radio, Ruiz. E infatti me la volevo prendere e poi non è andata a porto la roba. Cos'è già? Ho detto che me l'avrei voluta prendere anche io quella radio lì, poi non è andata a porto la roba, la cosa, capito? Avanti, chi è? Chi è avanti? Sei basso di radio, Santiago è 5:30, sì. Da dove moduli? 9? Cappa, come ti sto arrivando io lì in quella zona? Claudio Sparvera anche, che ti sicuramente ti arriva più forte di me, che lui per quella zona va meglio. Allora, c'è Rosso, è Rosso Gemi, ciao Rosso, buonasera, ben sentito. Dove sei? Chi è Grode? No, Rosso. Dove sei, Rosso? Sotto la centrale elettrica e Broglie, stai attento a non prendere la scossa, Millica. No, io ero di tratto, vi ho segnato. No, quasi 9:10 sei qua, dai, non c'è problema, arrivi fortissimo. Vediamo se ti ascolta Muros, vai qua. Dai, comunque ti si ascolta lo stesso, dai. Anche se non sei fortissimo, magari perché ho da Ruggito sei più forte perché è più in zona, capito? Ciao Rosso, ciao, non ti preoccupare, già stai arrivando bene qua, provetto. Più di 9, sì, radio 5, perfetto. Va bene, l'importante che ci sentiamo, vai Gianni. No, qua è più basso, però lo sento lo stesso, dai. La radio è bassa e la radio li può posso dare due, però lo sento. Vabbè, io credo che siamo più attenti. Io credo che siamo più attenti per quella zona, cazzo burro. Il bello di Fugera mi ha rompito la barra, cazzo. Sto preparando il capo lungo per attaccare il vintage da una scrivania all'altra, perché adesso questi giorni dovrebbero fare il commutatore d'antenna, che è ordinato. Il schifo va di TCBL, guarda, una cosa allucinante sono, dipende qua. Ma che c***o, ehi dai, ciao Rosso, ci sentiamo, dai, buona serata, buon tutto, mi ha fatto piacere sentirti. Alle prossime, vai qua. Scusa io, andavo, andavo, tutti si muovono i gatti, per carità che è pieno di schifo. Ma quelli bianchi ha preso? No, no, anche quelli battiti, sono usciti, ma che si goccia. Uguale, io, tutti uguali, io, mi piace rubare, no, no, no, io, è giusto per fare una persona, mi direi di 58, niente di che, no, no, cioè di, bah, 2000, ma un paio di metri, per non metterli quelli buoni della, dell'Anfa, no, capisco, sto mettendo uno di quelli, due di quelli stracco baratto qua interni, quelli Anfa non li uso fuori, io li uso per esterno. Ehi, ehi. No, io quelli bianchi li escludo proprio, non li prendo, quelli di bacchite sì, a me non mi hanno mai dato problemi con le bacchite, però quelli bianchi si sciolgono, si muoiono a girare tutti i canti, oi. No, quelli c'è, non sono di fretta che si scioglie, ma no, già, no, non sono da prendere quelli, lascia assolutamente. Se c'è 12 watt, gli altri sono tutte radio da 3-4 watt, quindi... Vabbè. Sì, sì, ma poi quelli, se tu li attacchi qualche lineare, qualche cosa, si sciolgono vivo, eh. Ah, allora, se non ha niente. Adesso infatti lo stavo preparando, quindi quel lineare me lo faccio sulla stazione, quindi ciò, perché quello... C'è un altro che fare sempre col capo in mezzo ai piedi, capito? Il commutatore a 3 io adesso vediamo quando arriva così commuto le radio da una parte all'altra già poco, un paio di metri, ma io nella stanza della cameretta c'ho lo spazio per farmi una bella stazione, ma non posso passare il filo e facciata, capito? Non vogliono, se no non l'abbiamo fatta in chi per la stazione. Facciata devi fare un lavoro particolare, non è cazzo, non li puoi passare, la mattina c'è cosa che è già successa ad uno, capito? Non puoi passare il capo dalla finestra di un altro, assolutamente, assolutamente. Io capo per arrivare qua alla mia finestra, ho dovuto fare un lavoro, non la grande, un lavoro che mi è costato un bel di anni, mi è costato 150 euro solo la Toscana, capito? Solo la Toscana, quindi senza contare i cavi, i corrugati e balle varie, tutto per non passare nella finestra degli altri, no. Vabbè, però come stanza io, due basi che adesso veramente mi piace, perché a me i vintage e i baracchini sono separati dagli HF, e quindi in questa dove sono seduto adesso faccio HF, VHF, UHF, e di là nell'altra base faccio i vintage, i baracchini, capito? Tutto qua. Avanti Muros, datemi il tempo che vado a prendermi la... appena bicarbonato, perché sto crepando, ho mangiato un casino, vai qua. Gianni, vuoi sta bloccando? Aspetta un attimo, crack, che io ho un mal di stomaco, devo prendere un po' di bicarbonato, già rientro subito comunque, non ti preoccupare. Adesso Claudio comincia a bombardare. No, ma che... Ehi, qua, ci sarà tutta la zuffanda qua per entrare. Stai attento, scrivi. 5 minuti, adesso mi sono stancato troppo, ho cominciato stamattina presto a fare questo, a fare l'altro, andare a fare la spesa, non mi sono fermato un attimo, quindi mi un po' di rilassi ci vuole, dai, vi ascolto. Beh, non c'è nessuno, mi sono ripreso, va. Attenzione, chiudo arrugginito, ci sei. Hola, hola, hola, hola, attenzione, chiudo arrugginito, ci sei, cambio. A me, dopo tutto, come sei? Io sono sempre qua. Io mi ho preso un po' di bicarbonato, nel frattempo mi sono anche a fare un po' di camomilla. Ti sei grimato brutto. Tutte le cose, c'è una pesantezza di storia, perché non mi desideri, perché c'è un bascio di voce, quando la guardo, guai, c'è un po' di roba, c'è il porco, c'è l'acqua, c'è il verde, hai le prezzemolo, le patate, buonissime, mi piace un sacco, ma sono un bel antipatico, sono sempre esagerati, si vengono, per non fare queste figure. Siamo in 5, gatto, hai buttato Babbezzi. Lo so, Clava, quando c'è gente così, meglio che ne avanti piuttosto che ne manchi, capito? Anch'io sono così. Quando c'è gente a casa, se ne ha giovato domenica di tutti e di più. Vabbè. Poi la metà ne è avanzata e me la sono dovuta mangiare di sera. Non mi è dispiaciuto perché c'erano ravioli, c'era tutta roba così. E poi ho fatto il pesce alla pizzaiola, insomma un bel di roba c'era. E poi non è andata tutta giù perché c'era mangiata una parmigiana, di più che di più. Poi non la mangi tutta, capito? E te ne rimane sempre. Mi siedo qua, mi faccio questo piano, questa prolunga, capito? Non ti aspetto, ci mangiava, trovato un bel 3 metri, 3-4 metri saranno di H1000, così mi faccio lo spezzone da una scrivania all'altra per commutare il vintage, così questa stampa è non apposta di più. Quella la usi quello che arriva al commutatore, così? Sì. Quando arrivo al commutatore, preso il commutatore, mi ha ordinato Luca, 26 euro, ma 26 euro. Per la spedizione lo metto dietro la scrivania, che non si vede. Questo dove ci sono, per arrivare all'antenna centrale, dove sto parlando adesso, col 140. Lo metto lì e commuto. Non so se n'è andato, chiodo, l'ho chiamato e non è entrato. E io gli parlo ancora, ho ancora il sistema, io sto parlando con questo filo, così mi faccio, metto il piede, mi salvo il piede, non c'è problema, così è pronto, anche arriverà lunedì. Il contattore sicuramente vai già ripetere vabbè e magari anche ZG cazzo vabbè mi ha fatto ZG mi ha fatto tutto quanto appena comprato il nuovo logo da Fusaro e andava tutto quello fuori lo scala la lancetta delle stazionarie. Ho controllato cosa poteva essere e poi alla fine ne ho staccato l'antenna e l'ho messa diretta, perfetto. Qualcosa te l'ho detto io, c'era qualche problema. Sì, ma non ci vuole nulla, ma mi viene bene. Ho spostato già il mobiletto, basta che vada dietro, stacchi da una parte e metta nell'altra. E adesso rientra anche Bruno Ragano, dai, e mi piace che sta entrando anche gente di vecchia era. Ho visto la poca. Avanti, chiodo. No, ma Bruno è tranquillo. È una persona a modo che c'è tanti anni, poi ha mollato, adesso che è in pensione si vuole rimettere tutto in macchina, perché ha paura di disturbare, perché c'è un'antenna interna in casa. Poi gli anni sono accaduti anche da poco, non è che... C'è sempre quello che si lamenta, poi noi siamo puntati col dito, dice quello c'è il baracchino, quello che disturba, magari non è colpa tua, uno è venuto e mi ha detto del condominio che praticamente venivano le strisce, e come fanno per le strisce, se col nuovo sistema le strisce non escono più, cosa si dice? Ma stai scherzando, forse dipende da altre cose allora. Strisce non te ne possono uscire, ti escono quadriti, ti si fa il quadro nero, ma le strisce non ti escono. Eh no, è successo qualche caso che anche con questo sistema nuovo si disturbava, diciamo che molta gente è fissata perché vede che c'è l'antenna, subito ti dice che sei tu che disturbi, capito? E quello è. E ci sono anche gli attaccabrighe, ci sono quelli che trovano il pelo nell'uovo, tanto è vero che Striscia adesso non ne fa più, se si interrompe, adesso fa le strisce e poi mi scrive non segnale. Se non c'è segnale cosa vuol dire? Non mica dipende da me, segnale se non ti arriva è perché c'è qualche disguido tra te e Monte Oro. E invece c'è le smart TV, uno è smart TV il mio, quindi non c'è bisogno. LG? No, da poco, ce l'avrò massimo 4 anni. Sì, no, io, parlate che sto facendo questo piede, così ce l'ho già pronto, dai. Mi approfitto a svegliarmi un attimino, tanto un piede sto mettendo, non c'è problema, vai già. Eia. Ieri non so se hai seguito Claudio, il servizio delle Iene, che esiste questa specie di, come descrivo, una scatoletta piccolina che ti fa prendere tutti i televisori, anche quelli a pagamento. E hanno detto che anche chi ce l'ha a casa viene arrestato se glielo trova. E infatti, non conviene no, perché prendi tutti i televisori così, prendi tutti i televisori senza pagare, capito? A scrocco. Lo vendevano 10 euro, capito? 10 euro lo vendevano. No già, noi ho pagato 10 euro. 10 euro al mese ti costava, anziché 50, 60 come Sky e come Tiscali, capito? Questi hanno una catena di cose, no? Ti danno il... chiamalo booster, chiamalo decoder, chiamalo come cazzo vuoi, ti danno quello lì, ok? Poi tu fai l'abbonamento con loro, sempre a truffa, e ogni mese devi dare 10 euro, ma ne avevano 20.000 di persone che pagavano 10 euro al mese, capito? E per quello che la portare se ne accorta. Ce lo conosco, sì. Si chiama una scatolettina. Oltre alla scatola loro ti vendono. Devi fare l'abbonamento con loro e paghi 10 euro al mese. Quindi tu immaginati, se non hai visto quanto hanno sequestrato, 20 milioni di euro, solo uno. Sì, ma poi vedi tutti i televisori con 10 euro al mese. contro quello di Sky, che magari ne paghi anche di più, e vedi solo Sky, lì vedi tutto, vedi da là la Z. Certo, perché io solo Sky vedo, io vedo Sky, vedo DAZN, vedo Netflix, vedo tutto vero, ma c'è la Smart TV, ma c'è la fibra però, cosa c'è? Vedi tutto, anche vedi solo Sky, vedi tutto. Questo ti fa permettere appunto di vedere tutto senza tu usare gli abbonamenti con la fibra, con, capito? Tutto a gratis, a desiderio a Romesci, ma siamo in Emilia da Monaci, hanno fatto un bene, stanno cercando un bene anche, sembra che ce ne siano anche altri in questa organizzazione, per carità di Dio, perché appunto siamo arrivati. Allora, ci vado una minchia. Sì, vediamo, forse l'ha già attaccato. Vai, capo, datemi due minuti che devo salvare. Questi rumeni sono specializzati in queste truffe qua. A Porto Torres io giravo col camion e vedevo sempre questo, lo sai, quando giri noti le cose anche senza volerlo. E al porto c'era sempre parcheggiato questo camper, e dai, è strano, questo camper è già quasi un mese qua parcheggiato, boh, o è di qualcuno che gli si è guastato, cosa, noi facciamo la domanda, no? Tra me e me. Beh, lo sai che cos'era quel camper? Erano degli albanesi che ci avevano una centrale all'interno e clonavano le carte della gente che andava a pagare col bancomat, le clonavano, avevano messo la telecamera nella banca e clonavano le carte e poi si spendevano i soldi di chi metteva, di chi depositava, no? E a questa mia collega, la buon'anima che si è morta, gli avevano rubato 10.000 euro. Male la banca è assicurata, gli era tornati, ma intanto li avevano spesi in Spagna. Sì. E gente specializzata proprio a queste cose. Poi gli albanesi sono i primi che sono. Avevano proprio una centrale dentro questo camper, cioè avevano proprio una centrale che era comunicante con la telecamera che c'era nella banca. Come tu andavi a ritirare, digitavi il numero, loro lo copiavano, capito? E poi facevano la carta. Io quando digito il numero metto sempre la mano sopra, la mano davanti, di modo che faccio finta di digitarne uno e poi ne digito un altro. Non lo digito mai il numero a prima chitto, di modo che loro non capiscano dove stai andando. Adesso sistemano delle mini telecamere che tu manco vedi, delle mini telecamere, e loro stanno fuori con la macchina. Dalla macchina vedono il numero che digiti e fanno quello che devono fare. Sì, c'hanno questo sistema qua adesso. È un insegnamento negativo, però. Purtroppo, se uno non ci pensa, gli fai capire come deve fare. La prende anche le porte blindate, adesso tutto sta la prende. E c'ha dei pannelli in legno, il mio c'ha dei pannelli in legno, che si svitano e all'interno c'è tutto il telaio in ferro pieno. E poi essendo in basso non c'è molto da fidarsi, capito? Quando sei in basso così, fanno prima di entrare. Io ho visto un film che si intitolava Scuola di Ladri e segnavano come si faceva a scippare, a rubare, tutto quanto. C'erano i maestri che insegnavano. Ehi. Avanti Claudio. E Claudio deve essere ancora impegnato facendo soldature. Breccate. Avanti, Robè. Ciao, vi stavo ascoltando da un paio di minuti. Ciao Claudio, torre di controllo, e ciao Gianni, dai, c'è qualcun altro? Ciao Robè, no, io sono qua, sto salvando un piede. Domani mattina te la riporto con la radio, c'è niente da fare. Il microfono è perfetto, non c'ha niente, la radio che non spinge, Roberto. Ma magari non va bene con quel microfono, perché già il fatto dell'alimentazione a 3 volt, questo è che mi fa di dubitare, magari ha necessità di un'amplificazione più forte, un'impedenza diversa del microfono. Non lo so, il microfono è a posto, la capsula a posto, non è in corto, l'alimentazione ce l'ha. Tra l'altro quello che vedevate voi, la ghiera, che è dorata, la capsula nuova, i fili dentro l'ho aperto, nuovo quel microfono, non c'è assolutamente niente. Ho pulito la cassa del portabatterie. Non graffia, non fa, non fischia, non spinge, capito? Non spinge, non lo so, mettiti un altro microfono, vedere un po', non so cosa dire, le connessioni già ce le hai, capito? Domani mattina te la riporto, intanto tra lì mezzo ai piedi no, non si vede. Domani mattina ti riporto la radio, il microfono lo lascio qua, intanto non te ne vai nulla. Ma hai provato a mettere un'altra capsula, Clara? E quale capsula le metti? Ma tu l'hai vista quella capsula? Dove la trovi una capsula del genere? Una capsula ceramica quella, nel condensatore. Niente, ma sto dicendo che non è né la capsula né niente, è la radio che non spinge. Perché non spinge? Se tu fai uno più uno, tu esci basso di radio, anche col microfono normale, capito? Vabbè, dai, vediamo, dai. Ok, chi c'è? Invece non c'è qualcuno altro tra voi due, che cosa? Claudio Di Muro su Gianni e l'altro Claudio, c'è qualcuno altro? No, tu esci basso anche col microfono normale. Quindi è un problema di fondo dei radio, secondo me, non lo so. Vabbè, ma te ne dirà così cosa. Ciao, mattanato che sei il vetro, la metti lì e cerca di mettergli un microfono anche da palmo, per amplificato, qualcosa del genere. Avanti, Claudio Di Muro, se ne prendi che sto parlando. Benissimo, no, 9 più 10, fammi il passaggio, ma lo smisso non l'ho visto, la radio è 5 pulita chiara, però non dammi il segnale, cioè fa parlare te lo segnale. No, ottimo segnale, sei più di 9-10 con i picchi superi, e la radio è perfetta, 5 pulita, mi piace, è molto chiara, nitida, nessun problema. Ciao Robbe, buonasera anche a te. Mi stavo andando a guardarmelo questo Ruiz. L'ha messo un'immagine di copertina, ma dove l'ha messo? Sulla pagina principale. Ah, ecco, adesso vado a vederlo. Com'è? Claro, proprio a te, parlando di Dogana, io lunedì devo spedire un pacco fuori a letto, fuori extracomunitario, e mi ha dato tutta la documentazione, anzi sono tre pacchi, non è uno, sono tre culli diversi, c'è tutta la documentazione, la fattura, eccetera.